Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. 79-84, partendo dal meno 16 a 14 minuti dalla fine. Così Siena ha costruito una impresa vera davanti ai 18.000 di Oaca. Buon pomeriggio Flavio Suardi. Buon pomeriggio Carlo e a tutti gli ascoltatori. Siena ieri sera ha fatto eccitare non poco anche Jerry De Rosa, che ha raccontato questa partita e che è oggi qui con noi. Ciao Jerry. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, coach Dan Peterson. Beh, amici sportivi, Jerry, anch'io ero eccitato a casa, quindi veramente è una delle più grandi imprese di coppe nella storia del basket italiano, di club. C'è proprio contro una grande squadra, super allenatore, che un paio di anni fa hanno vinto tutto davanti 18.000 ad Atene. Un numero che andrà all'antologia del basket italiano. Senti, ti ho pensato che ieri sera, quando Serona Jasikevičius, che mi devono spiegare perché gioca così poco, ha segnato quel canestro meraviglioso da tre punti del più 16, ti ho pensato, perché ho detto cosa avrebbe detto butta la pasta, invece non era così. Forse l'avrei detto, ma guarda, Siena è una squadra di grande carattere, insieme da un po' di tempo, e tutti loro nel loro DNA hanno vinto tante cose, hanno fatto il Final Four di Eurolega, hanno vinto quest'anno la Coppa Italia, hanno vinto due scudetti, neanche prima di arrivare a Siena tutti loro hanno fatto qualcosa, quindi nel DNA c'è questa cosa di non mollare, quindi e la società secondo me l'ha scelta proprio con grande cura. Dato qui con noi naturalmente c'è Flavio Suardi come ogni venerdì. Siena, che tra l'altro, ed è notizia di oggi, non si presenterà a giocare nel basket day, ma di tutto questo parleremo dopo, domenica, come sapete, su Sky, e c'è qui Jerry De Rosa, voce del basket di Sky, e ne parleremo ampiamente. Siena però domenica non si presenta a giocare, ha detto, è stato il telefono, noi non veniamo, non giochiamo con Avellino, perché insomma abbiamo l'Eurolega, partita con Avellino che doveva andare su Sky e che verrà recuperata, vedremo quando. Jerry, torniamo a ieri sera, perché la partita è stata troppo bella, anche contro, a un certo punto sembrava contro i mulini a vento col fischietto. Sì, sì, prima una precisazione, noi siamo ben felici di dare una mano a Siena, nel senso che martedì e giovedì a gara 3, gara 4, è chiaro che i tempi sono insomma, il massimo della vita. No. Però Sky è ben contenta, insomma, di dare una mano al basket italiano, perché abbiamo tutti voglia che Siena si presenti nelle migliori condizioni per gara 3, gara 4, tanto più dopo l'impresa di ieri sera. Torniamoci a questa impresa, non so, io poi il fatto che sia il coach a dire che è una delle imprese d'antologia del basket italiano, direi che dà la dimensione di quanto ha fatto Siena, insomma, lui che ne ha viste così tante, direi che non so quante squadre, non dico avessero potuto vincere ieri, ma non prenderne 20, perché insomma i motivi per mollare, i motivi per essere alla fine travolti c'erano tutti, sono stati bravissimi innanzitutto a mantenere la calma, cosa impossibile secondo me, soprattutto se stai giocando e ti rendi conto insomma che molti fischi vanno in una sola direzione. E poi la capacità davvero, a meno 16 davanti a 18.000 persone, con i laser, con i petardi, con i fumogeni, con la difficoltà nel fare anche solo un time out perché ti arriva in testa di tutto, la lucidità insomma di punire una squadra, la Panathinaikos, che è fortissima, che è composta da grandi campioni, sicuramente non è una squadra di difensori, e Montepaschi è stato bravissimo a punirli in questo senso. Coach, io volevo chiederti un po' quello che Carlo aveva detto all'inizio della sua prima domanda, ma perché un giocatore come Jasikevičius non riesce a trovare il giusto spazio in quella squadra? Forse perché ne hanno troppi da far giocare? Può anche darsi anche troppi, cioè se io sono un allenatore e Jasikevičius viene a giocare nella mia squadra, o fa 40 minuti o fa 5, c'è quello che viene prima, hai capito? Cioè, certo. E se andiamo a supplementare 45, cioè lui inizia come ho fatto io con D'Antoni e finisce la partita, cioè non esce, siamo su più 25 e 5 minuti alla fine, ok, va bene, però è una partita da giocare, cioè, poi Obradovic fa le sue scelte, non sto criticando lui, ma Obradovic ha vinto più di tutti nella storia del basket europeo, ma per l'amore di cielo, come criticare Phil Jackson, hai capito, non esiste, però ognuno ha le sue preferenze, io sono molto, diciamo, tifoso, fra virgolette, di Jasikevičius. Anche perché è uno che ha bisogno di avere la squadra in mano, oltre che la palla in mano, no? E quindi non è giocatore tattico bravo. Esatto. Lui è un giocatore, se le prendi lo sai cosa stai prendendo, comprando quello che c'è, e li prende per quello. Dice, ok, lui gioca, cioè magari gli altri giocano meno. Diamantidis gioca, non so, guardia, Spurunas gioca riserva, cioè, non so cosa dire, però Jasikevičius è uno che abbiamo visto quello che ha fatto lui con Tel Aviv, cioè finale, cioè, vinto, cioè proprio una roba assolutamente allucinante. Quindi bisogna farlo giocare. La mia idea, ok? No, ma è anche la mia, non so se è anche quella di Jerry. Sì, sicuramente c'è da dire che quest'anno, rispetto all'anno scorso, Panathinaikos ha trovato modo di diventare un giocatore tattico. È passato qualche anno e credo che Obradovic abbia trovato il modo di gestire tutta questa massa di campioni, perché comunque Diamantidis e Spanulis sono giocatori che in altre squadre giocherebbero 35-40 minuti. È chiaro che Jasikevičius tra questi è quello che è in grado maggiormente di decidere le partite, e fino, diciamo, a questi playoff Jasikevičius le ha decise anche giocando 20-22 minuti. L'idea di Obradovic immagino sia, in una serie di 5 partite ravvicinate, di non dare più di 24-25 minuti a testa ai suoi giocatori cardi, almeno nelle prime partite. Io immagino che a Siena Jasikevičius giocherà molto di più, purtroppo. No, l'altra cosa su cui volevo chiedere il vostro parere è come sia possibile che nel 2009 esistano ancora degli impatti ambientali, per usare un termine che è abbastanza abusato, di quel genere. Cioè, com'è possibile che una squadra vada a giocare in un posto dove non può fare un time out e dove l'arbitraggio è fatto al condizionato da questo ambiente? Guarda, questa è la domanda del 64 milioni. Okay? Sì, anche perché, coach, anche tu lo trovavi quell'ambiente, quindi anno è passato. Ha detto Flavio, però nel 2009 non esiste questo. C'è proprio, non per citare l'NBA, ma l'NBA ci sono i campi difficili, non fanno molto rumore, non so, a qui o là, eccetera, ma non come ha detto Jerry, con lacrimogene, con laser, con qui, con là, eccetera, cioè in tamburi, e poi anche fischiate. Io sono anti questi tifosi che vengono fischiati. C'è stata una partita da qualche parte dove c'è stato il fischio. A Ferrara, coach. Ah? A Ferrara con la Fortitudo. Ok, bravo. Bravo Jerry, Sky l'ha fatto. Cioè, fischio, tutti si fermano, il giocatore con la palla fa pum, lancia la palla, va dentro, canestro valido. Fuori dal palazzetto. Devono mandarli fuori dal palazzetto. Fuori dal palazzetto. Devono individuarli e mandarli fuori. In Grecia, in Italia, cioè prima in Italia, ok, cioè proprio antisportivo, insopportabile. Sono d'accordo, è sempre stato così. Purtroppo è una moda che ogni tanto ritorna, è una moda di qualche anno fa, però questi fischietti dentro i palazzetti, insomma, ogni tanto ritornano l'inciviltà. Coach, questa sfida tra Siena e Pana è anche un bellissimo mind game tra due grandi squadre e due grandi allenatori. Guarda, tu hai citato l'allenatore. Cioè, non so se Gervi è d'accordo, ma qui in Italia c'è Pianigiani, che fra virgolette, sto scherzando, ha fatto l'errore di fare vice allenatore a Siena per 15 anni. E dice, quello lì che è stato vice allenatore. Ha fatto un'impresa ieri che non ha fatto neanche Nikolic, ok? Quindi sì. Cioè, voglio dire, è ora di dire, Pianigiani è un grande allenatore, punto. Ok, e sì, mind game, non lo so, la bravura di loro. Di Pianigiani, faccio questo, Jerry poi magari mi dice se la sua. Pianigiani fa la sua squadra giocare la sua partita. Obradovic fa l'altra squadra non giocare la sua partita. Cioè, sono due tipi diversi, ma hanno una filosofia molto chiara. Ma poi, tornando alle due partite a Siena, non saranno facili. No, infatti, apposta, lì si colloca il mind game, no? Perché ieri. Oh, yeah. Pressione su Siena, naturalmente, ieri in gara 2, perché se perde mezza morta, o forse tre quarti morta. Però Siena è stata brava a riportare la pressione sul Panathinaikos, e alla fine tutti quei palloni scivolati via dalle mani erano chiaro indizio di una squadra che aveva paura, no, il Panathinaikos, Jerry? Sì, una squadra che pensava ormai di avercela fatta e che si è vista rimontare in maniera impressionante dall'avversario, e alla fine sono stati palloni persi in maniera anche molto banale da grandi campioni come Jasikevičius o Diamantidis. A me ha impressionato molto Simone Pianigiani ieri per come ha saputo portare qualche piccolo accorgimento rispetto a gara 1, che alla fine è risultato decisivo. Parlo per esempio di Terrell McIntyre, che ha tirato benissimo da 2 e male da 3. Siena ha tirato male da 3 sia ieri che in gara 1, però ieri tutti a convinti che McIntyre facesse una grande prestazione al tiro da lontano. McIntyre si è buttato dentro, ha spezzato in due sempre la difesa del Panathinaikos. Pianigiani sa che i lunghi del Panathinaikos, che sono grandi e grossi, ma non sono dei grandissimi difensori in aiuto come Battista e come Pekovic, non sono in grado, insomma, di tenere una penetrazione, di andare a aiutare, così come gli esterni se vengono attaccati fanno molta più fatica, tante finte di tiro da tre e poi McIntyre che si butta dentro, tante finte di sfruttare il blocco, andare da un'altra parte, e McIntyre è andato a fare tre o quattro volte un terzo tempo discretamente comodo, per quanto possa essere comodo a Oaxaca un terzo tempo, e alla fine ha finito con 5 su 5 da 2, e lì è stata un po' la chiave con cui Siena è riuscita a rimanere un pochettino a galla. Poi c'è stato ormai un impressionante Lavrinovic nella finale per lucidità, non è più solo un grande realizzatore, cioè Siena non è mai stato, è diventato intanto un grande difensore e poi un uomo tattico perfetto, perché il primo tiro se l'ha preso molti minuti dopo il suo ingresso, eppure è risultato determinante. No, ma questo è un'altra cosa che volevo chiedere al coach. Lavrinovic nessuno lo aspettava in campo in panchina, invece ha fatto riscaldamento, si è seduto lì con la mano fasciata 23 giorni dopo l'operazione. Poi si alza, entra, soffre. Effetto Willis Reed, coach. Assolutamente. Ha detto Jerry, un'ispirazione, una grande mossa a parte sua, e proprio non ha fallito l'appuntamento. Certamente ha dato qualcosa alla squadra, di carica, ma anche dato sostanza. Cioè, è andato in campo, ha giocato pallacanestro, ha fatto le cose, come dico io, essenziali. Io amo questi giocatori lì, quelli idioti che schiacciano, che portano la palla indietro mezza per fare la 360 o la mulino per schiacciare, o si appendono al ferro come quel Harrington, non voglio neanche commentare, di Knickerbocker. Io odio quelli. I giocatori di sostanza, anti-spettacolo, che fanno le cose come Lavrinovic, o Lavrinovic come si vuol dire, io li amo, perché loro sono loro che vincono le partite, non quelle che giocano per lo spettacolo. Quelle che giocano per lo spettacolo giocano per loro stessi, loro applausi, loro titoli sul giornale, loro qui, loro là, eccetera. Lavrinovic gioca per la squadra e la vittoria, diverso. E poi entra e dà un segnale, perché ieri è stato importante, io credo, anche emotivamente la presenza di Lavrinovic in campo per i suoi compagni, no? Assolutamente, assolutamente. Cioè lui veramente è uno che... Quando dicono in Italia, c'è la grande frase che ho imparato io il primo anno, quando Porrelli mi ha parlato a Meneghini, ha detto, fa differenza, due parole, fa differenza. Lavrinovic è questo, Lavrinovic è Meneghini a questo livello, ok? Coach, voglio chiederti questo, se tu sei pianigiani, come prepari gara 3? No, guarda, lì è la tentazione di sovraallenare la situazione. Avete detto voi anche Jerry, piccoli accorgimenti fra una partita e l'altra, solo quello, e sapere, cioè, proprio che hai due partite in casa, non uno, perché va la quarta, comunque finisca gara 3, se c'è la quarta partita bisogna giocare due partite, qualsiasi risultato, anche se perdono la prima in casa, se vincono la quarta, cioè, le vanno di nuovo alla tele e si rigioca quella cosa. Ovviamente il problema è che abbiamo citato tutti, che Panathinaikos sarà agguerrita e non avrà niente da perdere, e loro non scivolano con le pallone lì. Loro giocheranno la grande partita, due grandi partite a Siena, matematico. Beh, adesso loro spalle al muro, eh. Oh yeah. Loro adesso spalle al muro. Cos, prima di salutarti, volevo da te una battuta sul derby di Bologna che aprirà il Basket Day domenica a mezzogiorno. Porelli è un'altra storia. Sabatini ieri ha detto: spero vinca la Fortitudo, poveretti. Sabatini è meglio di Teo Teocoli, lui, quando fa queste battute, ok? Lui veramente è uno che pensa, cioè, che veramente è un uomo di show, ok? È un uomo di spettacolo, ma anche è geniale in queste cose, perché così toglie attenzione dalla sua allenatore, dalla sua squadra, dal suo ambiente, eccetera, e questo è geniale, ma dentro di lui sappiamo che vuole vincere. Vuole vincere e magari vederli retrocedere, cosa non improbabile a questo punto, perché la Fortitudo non è messa bene. Non è messo bene, assolutamente, perché continuano a perdere le partite che dicono adesso vincono quello lì e poi perdono, e sono... Qui in America i Knickerbockers perdono 6-7 in fila, rimangono in NBA. Qui se tu perdi 6-7 in fila vai in Lega 2, okay? Qui c'è la retrocessione, ma io sono certo che la Fortitudo tirerà fuori una grande partita, okay? Con le spalle al muro, perché c'è gente lì che ha un po' di DNA, un po' di curriculum, come Mancinelli, che è veramente il totem della Fortitudo. Quindi non sarà per niente facile per la Virtus. La gente che pensa così si sbaglia, perché la Fortitudo, io che ho fatto 10 derby, 10 infarti, ok? Cioè proprio non è mai facile un derby. Sono altre... Io cercavo di di diminuire l'importanza del derby, quando sono il derby è una partita come un'altra, il derby, ma qual è questa storia qui? Ci danno 4 punti per un derby, 2 punti solo, allora è una partita come una... però dai, la verità è diversa, okay. Tu facevi come Sabatini che ha detto no, questo derby non lo sentiamo neanche, spero che vincano loro perché poverino. Esatto, io vendevo fumo e lui vende fumo, okay? Cioè, siamo due fumatori, no? Grazie coach, ciao amici, ciao Jerry, abbraccio, ok? Palla spicchi. Sempre con noi naturalmente Jerry De Rosa qui in studio, ma collegato con noi perché la nostra Eurolega non è solo Siena, anche se è tanto Siena, la nostra Eurolega è anche un po' di Barcellona perché lì ci gioca Gianluca Basile. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ieri 1-1 con il Tau, altra partita, altra sfida bellissima questa. Non so se a te piace, è un po' dura, eh? Sì, è stata dura perché noi venivamo... Questa era la settima partita giocata quest'anno e ne avevamo perse 6. Avevamo in Supercoppa, Coppa del Re, campionato, e quindi era dura, però col carattere, col cuore, con la testa, con tutto siamo riusciti a raddrizzarla. Niente, a vincerla. A vincerla. Adesso tutti a vittoria, la speranza di fare il colpo. Certo, Jerry, che Gianluca sta, che il Baso sta facendo una stagione pazzesca. Come sempre. Ciao Baso, un piacere sentirti. Ciao. Ma se no, io volevo chiederti dei 4 supplementari dell'ultima giornata di campionato. Quanto vi hanno... Avete aspettato il weekend giusto per giocarne 4. Incredibile. Cerchi di fare una partita, no? Di spendere meno energie, poi dopo ti trovi in una partita strana, un po' gli arbitri ci hanno dato contro, noi non eravamo al massimo, però bene, dai. Capita, e avanti così, cioè, non è che si può piangere, non si può pensare, no, a quello che è stato, quindi giochi 4 supplementari, successo, giochi due partite, no, una dietro l'altra, una specie di 24. Sì, questo è che non puoi, cioè non puoi stare lì a così a piangere, devi sempre andare avanti. Certo. Senti Gianluca, pressione tutta sulle vostre spalle ieri sera in gara 2, adesso qualcosa si sposta anche sulle spalle degli altri, però. Sì, credo di sì, sicuramente non sarà facile andare a vincere lì, però già il fatto che abbiamo fatto capire che possiamo vincere contro loro, perché la sensazione era che loro erano troppo sicuri, quindi anche sui tiri mettevano tutto, sui rimbalzi andavano, cioè era la cosa che si sentiva era che loro erano convinti che la vincessero. Adesso sono cambiate le cose perché ora hanno capito che possono perdere, quindi già un po' di pressione in più a loro. Il tarlo e noi la convinzione che possiamo batterli. Quindi è tutto da giocare, ma naturalmente è tutta aperta questa serie. Baso, voglio chiederti ancora una cosa da bandiera fortitudina. Domenica questo derby, Sabatini dice spero vinca la Fortitudo perché per Bologna è importante ci sia la Fortitudo. Non so quanto dica la verità e quanto no. Certo è che l'Aquila sta volando bassissimo in questa stagione, la stagione peggiore di tutti gli ultimi anni. Sì, credo sì, però devi mettere anche tanto sfortunato, sugli infortuni, anche l'ultimo di Scales. Sì. Non è facile, non lo so, cioè sicuramente Sabatini ci crescerà il naso perché non ci crede nessuno, insomma. Non ci crederà nessuno su quello che dice, però per non lo so, la Fortitudo deve fare una partita super. Sicuramente la Virtus è in un momento buono, sono cariche e tutto, la Fortitudo è giù, però il derby, però è il derby. Deve venirne fuori, perché non posso pensare a una squadra così forte e tutto, che vada giù, non lo posso, a un basket italiano non posso credere, a un basket italiano non ci posso credere, no, ma un basket italiano senza la Fortitudo, a una Basket City a metà non vale la pena credere, al di là delle bugie di Sabatini. Grazie Baso, in bocca al lupo. Niente, a presto. Ciao Baso. Ciao. Grazie, ciao. Grazie davvero a Gianluca Basile. Abbiamo anche un ascoltatore che è Harry, provincia di Pordenone. Il primo che chiama 800240024, numero verde, ma volevo rispondere anche a un messaggio di Omar che scrive: quindi se Siena non si presenta con Avellino avrà una penalizzazione in campionato come da regolamento o sarà cambiato in corsa come Fortitudo Montegranaro? Fortitudo Montegranaro ne parliamo dopo. Quanto a Siena, semplicemente Siena ha chiesto tecnicamente un rinvio della partita con Avellino, proprio per non avere questo impegno di campionato a due giorni dalla partita dell'anno. Ha precisato che è una scelta della Lega, quindi non c'è nulla di Siena misterioso. Ha chiesto e la Lega ha accettato, quindi Siena tutto in regola, insomma. Tutto regolare. Harry, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dica. Intanto, innanzitutto, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Grazie. Sia dal Monica Verdi. Niente, volevo parlare, aggiungere ciò che non abbiamo studiato, la fantastica partita che ieri sera sono riuscito a vedere a Via Atene, sì, tra Olympiacos e Montepaschi. Penso che un livello di base così elevato, era da un po' di anni, penso, e sono sempre passato di basket, non molto, però quello che posso suggerire non ci vedo molto volentieri. Penso una partita di tale intensità è stata una cosa fantastica, uno step per quello che noi in Italia siamo produrre come basket italiano, anche se molti erano stranieri, diciamo, sì, non sono quelli di Siena. Però ecco, volevo sapere qua... Sì? No, dica. Volevo sapere? Volevo solo sapere appunto alla luce della partita di sera, se Siena manterrà, diciamo, la stessa intensità di gioco, specie in difesa, ma ho ancora presente la palla recuperata da Caucana sugli ultimi minuti di gioco. Quello lì è un miracolo. Guarda, le faccio rispondere da Jerry De Rosa. Io credo che sia quell'intensità difensiva ce l'abbia addosso come la pelle, no? Sì, ce l'ha dal primo allenamento di fine agosto fino all'ultimo minuto della gara finale scudetto. È il segreto di Siena, uno dei tanti segreti è proprio questo, che questa è una squadra che tratta ogni partita, ma anche ogni allenamento, come se fosse la cosa più importante del mondo, e le garantisco che Kaukenas quella palla ha provato a recuperarla anche nella partitella finale di un allenamento, e questo è proprio il punto, perché tutto lo staff senese, da quello tecnico a quello dirigenziale, punta su questo, cioè crea un gruppo che creda fortemente nel lavoro, nell'intensità, nella voglia di vincere, nella voglia di non mollare mai, e lo si è visto anche gara 1, Siena l'aveva rimessa in piedi, ed è un'altra partita nella quale secondo me la maggior parte delle squadre europee avrebbe perso ampiamente, insomma, senza arrivare fino alla fine a giocarsela, proprio per questo motivo, perché questa è una squadra che anche sotto di 16 a 14 minuti alla fine non molla mai. Poi l'impressione è che i nuovi innesti si attengano strettamente a un regolamento interno che probabilmente non è scritto, ma che è molto ben stampato nella testa dei veterani, e quindi la regola è: o fai così oppure sei fuori, sostanzialmente. Sì, è spiegato perfettamente quello che succede nello spogliatoio di Siena, ma succede nello spogliatoio, non c'è nessuno che impone questo. Il gruppo trasmette questo messaggio, cioè noi percorriamo questa strada, se sei dei nostri vieni con noi, però percorri anche tu questa strada, ma è diciamo il modo in cui si comportano gli altri giocatori, quelli più esperti, che indica questa strada, certo. Non c'è un regolamento, è proprio l'esempio degli altri che molto, infatti rispetto alle altre squadre i nuovi di Siena si integrano molto presto. Sì, come accade in tutte le grandissime squadre. Palla spicchi. Ecco che torniamo, Jerry De Rosa qui con me, Flavio Suardi naturalmente per Palla Spicchi di oggi. Ripeto, 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666. E vorrei rispondere a un'ascoltatrice, Stefania da Belluno, che che bacchetta un po' Jerry per il commento di ieri sera, molto incentrato sugli arbitraggi. Lei dice, evidentemente non tifosa di Siena, beh, Siena tante volte ce l'ha a favore in campionato, beh, ma ieri sera è stata una cosa diversa, eh. In un paio di episodi il fischio che parte prima del presunto fallo è tanto, eh. Sì, sì, infatti, ma noi l'abbiamo detto anche ieri, non siamo abituati a parlare così tanto degli arbitri, però ci è venuto spontaneo. Devo dire che anch'io mi sentivo in difficoltà proprio per questo, perché a me non piace per niente, io non vorrei mai parlare degli arbitri in una partita, cioè dire solo ho fischiato fallo e punto. Sinceramente ieri le cose che abbiamo visto sono state eccessive, perché tre falli di Ezzo dopo tre minuti, un paio di sfondamenti chiari non fischiati, e poi alla fine, secondo me, l'esempio classico più evidente è l'ultimo minuto e mezzo, come diceva Carlo, due fischi che sono arrivati prima del contatto, fa su una penetrazione di Fozzis e una su un altro, uno contro uno di Battista contro Lavrinovic, e sono arrivati ancora prima del contatto. Sì. E questo sinceramente non lo si può non sottolineare. Tanto nessuno di questi sono stati in piedi, perché c'era stata una chiara infrazione di passi di Battista. Detto, fischiato passi, oh, ci siamo. Infatti, invece no, aveva fischiato fallo a quell'altro che nemmeno l'aveva commesso, e aveva fischiato l'intenzione di commettere fallo. Comunque sono d'accordo per rispondere all'ascoltatrice, che normalmente, insomma, meno si parla degli arbitri meglio, certo, è, insomma. Ma infatti la linea è questa, poi quando ti trovi di fronte a episodi come quelli di ieri sera è cronaca, chiaro, anche descrivere le cose. Ed è importante, visto che adesso ci saranno due partite a Siena, che insomma lo si recepisca, insomma, come non come un'ingiustizia subita, ma semplicemente come una pessima serata da parte degli arbitri, e che a Siena si giochi a basket, perché finché si è giocato a basket Siena è stato superiore, secondo me, anche in gara 1, quindi il pubblico deve essere lì per sostenere la squadra e per vedere una partita di pallacanestro, perché sono convinto che se si gioca a pallacanestro Siena vince, insomma. E tra l'altro questo nobilita ancora di più l'impresa di Siena, perché ha giocato in un ambiente del genere e sarebbe meglio evitare di andare a giocare gara 5 da quelle parti, così a spanne. In linea di massima sì. Ermanno, provincia di Padova, altro ascoltatore, ricordo 800 24 00 24 per parlare con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto complimenti veramente per la trasmissione, bellissima, l'ho scoperta poco tempo fa, comunque è bellissima. E complimenti anche a Sky e a Jerry, perché le partite sono fantastiche. Grazie. Volevo fare solo due appunti. Uno, che è una cosa che mi dispiace molto, è che non venga trasmessa in chiaro queste partite, perché veramente i giovani sicuramente... dico ragazzi da 15-16 anni, vedere partite così belle, così intense, avvicinerebbero moltissimo a questo sport fantastico. Un'altra cosa è che volevo fare un appunto sul tema dell'ascoltatore di prima, che ha detto che era molto, non vedeva più queste partite intense, così belle. E potrebbe essere anche vero, ma non è più così, perché io seguo molto la Benetton, essendo molto vicino, la seguo anche proprio al Palaverde. Sì. E partite così ne ho viste tantissime, molto belle, magari non proprio così, perché ce ne sono rare così belle, però ce ne sono veramente tante di belle, in Eurolega soprattutto, ovviamente. Certo. Però da anni che si vede questo basket in Europa, e per cui ecco, è un peccato, ma soprattutto proprio che non possono vederlo in molti. Volevo dire solo questo, ecco. Sì, no, l'intensità magari è diversa, però lei sta parlando comunque della bellezza di questo gioco. Siamo tutti d'accordo. La partita ieri è stata unica per la rimonta di Siena e per la vittoria nelle condizioni in cui è avvenuta, però sono d'accordissimo con lei che questo è uno sport meraviglioso, anche nelle partite in cui si segna poco, in cui si hanno tanti errori, è sufficiente che ci sia intensità, che la partita diventa bellissima. Sì, poi è il momento più bello dell'anno questo, playoff di Eurolega, stanno avvicinandosi i playoff, ci sono le finali NCAA. Schiantata Duke, grande Villanova, scrive Nicola, che evidentemente questa notte ha fatto le ore piccole. Sarà contento Alan Ray. Non ricordo il pronostico di Obama, ma questa è un'altra storia. In America si sono arrabbiati moltissimo, mi diceva Simone Sandri, per questo esporsi di Obama. Adesso li vogliono tutti con gli occhi profilo sulla scrivania, profilo basso, con la calcolatrice in mano per fare i conti della crisi. Al di là di tutto questo, Jerry, parliamo un attimo del Basket Day. Sì, il secondo di quest'anno, insomma, io credo che sia un servizio per i nostri abbonati e per la pallacanestro unico, insomma, sono 12 ore di pallacanestro con 5 partite una dietro l'altra, con degli studi di continuità che portano da una partita all'altra in cui ci saranno ospiti. Gianmarco Pozzecco sarà con noi per tutta la 12 ore, lo terremo legato alla sedia, ma sì, non ce n'è bisogno, perché si diverte. Voi. No, però l'altra volta insomma è stato secondo me molto bravo insomma a gestire questa giornata. Cominceremo alle 11:30 del mattino con lo studio che porterà fino al derby alla Palla 2 a mezzogiorno, 5 partite, e finiremo alle 11 alla fine di Roma-Ferrara che chiuderà il programma. Come dicevamo all'inizio, alle 18:45 non ci sarà Siena-Avellino per la richiesta accettata dalla Lega di Siena di non giocare questo weekend, ma ci sarà Cantù contro Montegranaro, prima alle 14:15 Udine contro Milano, poi Pesaro contro Treviso alle 4:30, per su queste 5 partite insomma, direi che un appassionato di basket di più non possa chiedere. No, immagino, no, poi comincia, finisce, quello inizia l'NBA, poi c'è volendo l'NCAA, so. Con molto caffè si può stare lì tanto tempo. Martedì e giovedì c'è gara 3, gara 4 insieme. Esatto. Ma vogliamo parlare anche della ripetizione presunta di Fortitudo Montegranaro, visto che ci siamo. Tra l'altro era una partita di mezzogiorno. Sì. E c'è stato questo. Probabilmente allora è stata decisa la ripetizione, però Fortitudo potrebbe far ricorso, e questo è un caso abbastanza spinoso. Sì, molto spinoso. Dispiace solamente che, cioè, io credo che questo sia una cosa che è successa. Credo che chi ha seguito la partita abbia avuto subito, dopo 5 minuti, 10 minuti al massimo, grazie alla ricostruzione che hanno fatto Flavio Tranquillo e Alessandro Scipione dalla regia, la percezione di quello che è successo, che sia stato un errore, che è un errore che può succedere. Stupisce che partendo da questo errore non si stia ancora attivando per evitare che questi si ripetano. Intanto la sistemazione dei cronometri è un argomento spinoso di cui si parla da anni, ma non avviene niente. Il fatto che non si possano riciclare rende comunque probabile che capitino altri errori di questo tipo. È stato deciso così, andando anche contro insomma le regole che sono scritte, che forse sono un po' vecchie, il fatto che non si possa ripetere una partita per errori di questo tipo, però è stato riconosciuto l'errore nella assegnazione del tempo che mancava da parte dei tre arbitri. Adesso vedremo cosa succede con il ricorso della Fortitudo. Insomma, sicuramente resta un po' di perplessità sul fatto che un avvenimento datato 8 febbraio e che era insomma chiaro nel suo sviluppo 10 minuti dopo la fine della partita non sia ancora stato risolto, ed è passato più di un mese. Sì, sì, non c'è dubbio, questo è un segnale di debolezza comunque del nostro movimento intero. Poi non voglio star lì a sindacare sulle colpe, su chi ha fatto più pasticci. Certamente è un pasticcio che sporca la faccia del basket in un momento bellissimo quanto delicato, ecco. Palla spicchi. Sì, per noi Jerry De Rosa, abbiamo adesso due telefonate da Treviso. Una di Giacomo, che è un ascoltatore, e l'altra è di un giocatore che sono felicissimo di vedere di nuovo su questi livelli, ed è Massimo Bulleri. Ciao Massimo. Ciao Bullo. Bullo, sembri uno che finalmente è uscito dalle porte della gabbia. Stai giocando, e noi ne siamo tutti felici, abbiamo detto un miliardo di volte, stai giocando una parte di stagione meravigliosa, con dentro tante cose. Ma, vi ringrazio dei complimenti. Non è che sono uscito dalla gabbia, sicuramente è un po' più di fortuna di quella che ho avuto in questi ultimi tempi. Poi niente, sicuramente non avevo perso dentro di me la fiducia di me stesso, anche se magari avevo dovuto scavare un bel po', però niente, sono principalmente sereno e contento della situazione, del momento, conscio che partite purtroppo cattive arriveranno, ma spero che che quando arriveranno non cambi la sostanza su quelli che sono i pensieri su di me. Che posso comunque continuare a fare bene. Ma è chiaro che no, non è la singola partita, no Jerry? È un giocatore importante per la nostra pallacanestro che è tornato. Sì, sì, sicuramente. Io sono convinto che... Ciao Bullo intanto. Ciao Jerry. Sono convinto che Bullo qui a Milano sia stato principalmente molto sfortunato. Nel senso che tutte le volte che dava l'impressione di finalmente di entrare nel ritmo, nel cuore della squadra, si è fatto male. E questo ha bloccato la sua crescita. Io, l'impressione che ho è questa. Sulle sue qualità nessuno ha mai dubitato, e infatti alla prima occasione buona sono tornate fuori. È anche ovvio, essendo la pallacanestro un gioco principalmente di testa, che se uno si trova bene anche fuori dal campo gioca meglio, non ci sono dubbi. Bullo non è il primo esempio e non sarà l'ultimo di questo. E poi credo che il Prosecco di Treviso stia facendo miracoli, no Bullo? scusami, ma non ho... No, dicevo che poi il prosecco di Treviso sta facendo miracoli. No, adesso, a parte gli scherzi, credo che comunque conti molto, no, il fatto di essere tranquillo, di avere la testa libera, eccetera. Ma probabilmente, secondo me, non avessi avuto almeno uno dei tanti infortuni che ti hanno colpito qua a Milano, lo avresti avuto anche qua a Milano. Cioè, non è che ti trovassi male come ambiente a Milano. No, no, assolutamente. Sicuramente c'è stato da pagare uno scotto all'inizio, quindi ancora nel 2005 quando sono arrivato, perché è chiaro che Treviso è una città, è una cittadina, Milano è una metropoli, quello sicuramente ho pagato un po', cioè, capire dove ero cascato, tante cose, chiaramente è una città diversa, conoscere, intendere, interpretare, eccetera, eccetera. Passato quel momento lì non c'era nessun tipo di problema con l'ambiente esterno. Poi le aspettative su di me erano sempre comunque per certi versi irraggiungibili, ma per certi versi insaziabili più che irraggiungibili. E quindi poi dopo diventa difficile trovare un modo per sentirsi appagato in primis in se stesso, perché non sai mai se quello che fai è basta e se è sufficiente o ti possa valere la serie di tempo di giocare una partita dopo magari una partita giocata male. No, certo, ma a me personalmente quello che dava fastidio, ma l'ho detto mille volte a questi microfoni, ai microfoni spenti, a Jerry, a chiunque, era comunque stato l'ultima parte dell'avventura milanese di Massimo Bulleri, perché vedere un giocatore importante per la nostra pallacanestro, così importante per quello che ha dato la nostra pallacanestro, non alzarsi mai dalla panchina o entrare per giocare 30 secondi, ecco, ma lo dico io, personalmente a me ha dato fastidio, personalmente mi ha dato fastidio, l'ho detto mille volte, mio pensiero pubblico, poi chi vuole intendere intenda, non è un problema. Sentiamo anche un ascoltatore, Giacomo, sempre da quelle parti, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, sono un abbonato da 26 anni alla Benetton Basket. Quindi conosce il nostro interlocutore. Sì, lo conosco, sono un amico di Buonello, Bullo. Ah sì, conosco, ciao. Ovviamente ho capito chi è Bua, ma ora tu non ti ho presente. No, ma avremo modo di incontrarci ancora. Niente, tre considerazioni. Primo, credo che quando abbiamo letto sul giornale che le prime voci che dicevano che il Bullo sarebbe arrivato a Treviso, per quanto ci siamo arrabbiati quando se n'è andato, ma in quel momento eravamo tutti felici, e credo che il Palavere lo stia dimostrando nei suoi confronti, che siamo tutti felicissimi che lui sia tornato, e lui ci sta dando una grandissima, ripeto, grandissima mano ci sta dando, perché credo che sia il buon momento positivo, soprattutto degli ultimi 30 giorni, dipenda molto dalla presenza in campo di Massimo Bulleri, sicuramente. E questo dobbiamo renderne atto, e come dite voi, credo che a Milano qualcuno adesso forse avrà qualche rimpianto di non aver capito bene forse che tipo di giocatore avevano per le mani. Ma sai, ma non è questione di rimpianti, secondo me, ma lascio rispondere a Massimo Bulleri. Per quanto mi riguarda, non è questione di rimpianti, è questione di anche di rispetto, vorrei dire, per un giocatore. Per un giocatore che è importante. Massimo, vuoi rispondere dopo questa specie di carambate, vuoi rispondere a Giacomo? Sì, intanto lo ringrazio. Chiaramente l'atmosfera a Palaverde la percepisco e mi fa molto piacere per quello che diceva prima. Niente, per quello che riguarda il discorso del rispetto, non rispetto, ma io non entrerei in questa terminologia, nel senso che... No, ma lo dico io, quello, Massimo, certo, certo, è il mio, certo, pensiero. Quello che, certo, io... Lo assecondo e lo spiego, lo proso, diciamo. In questo mondo, in questo, chiamiamolo mestiere, tra virgolette, è chiaro che possono succedere anche queste situazioni qui, indipendentemente da quello che uno ha fatto e anche nell'ottica di quello che uno può fare ma non fa. Siamo professionisti e dobbiamo comunque cercare di fare il meglio possibile anche per i 30 secondi, poi che sia giusto o sbagliato, secondo me è relativo, e quel momento c'era quello, devo cercare di fare il meglio possibile in quella situazione, spero di averlo fatto, quantomeno per rispetto di A, di chi mi pagava, e B, di chi veniva a vedere le partite. Pensiero di un professionista, questo. Ah, sicuro, siccome infatti, insomma, Bulleri è stato esemplare da questo punto di vista. Io vorrei proiettarmi un attimo sul futuro, perché abbiamo una final eight da affrontare. Bullo, con che prospettive? Una final eight che parte giovedì. È chiaro che prima c'è una partita molto, molto delicata a Pesaro domenica. Ora, sicuramente questo traguardo della final eight, del quale io sono comparsa, perché quando sono arrivato la squadra era già praticamente qualificata la fa un po' da padrone in questo momento, tutti aspettano questo evento, però non dobbiamo dimenticarci che domenica ci giochiamo tantissima parte di un possibile approdo a playoff a Pesaro, e quindi prima dobbiamo pensare a quella. Poi la Final Eight per certi versi è arrivata inaspettata, quantomeno rispetto a quelle che erano le considerazioni e i pensieri di inizio stagione, quindi credo che tutto quello che di positivo si può prendere sia giusto prenderlo, sia giusto provare a prenderlo, però senza pressioni, senza l'ansia di dover per forza fare risultato, di dover arrivare a un determinato traguardo. Siamo lì, siamo contenti di esserci, dobbiamo prenderla come una spinta per il finale di stagione. Massimo, io volevo chiederti questo, l'impressione guardandoci giocare è che tu abbia avuto anche bisogno di pochissimo tempo dal punto di vista tecnico per entrare nei meccanismi della Benetton. Ah, non lo so, sicuramente la prima partita che abbiamo giocato in Coppa Italia a Bologna con Montegranaro, che da parte mia era stata più una partita di nervi, di voglia, che non una partita di tecnica, perché chiaramente avevo fatto due allenamenti, era 40 giorni che non giocavo. Chiaro, quella partita finita in quel modo, con un determinato tipo di apporto, ha facilitato tutto, e la considerazione dei tifosi, giusto perché c'era prima quel ragazzo qua della provincia, sì, e dei compagni e dell'allenatore e dell'ambiente, ha velocizzato quello che doveva essere il mio inserimento. Detto questo, sicuro che il fatto di essere tornato qui a Treviso, un ambiente col quale mi ero lasciato, nonostante quello che si era detto, scritto, pensato, sussurrato, mi ero lasciato molto bene, è stato un ostacolo in meno da dover superare. Se fosse andato in qualsiasi altro posto d'Italia o d'Europa, è chiaro che ci sarebbe voluto un po' di tempo per capire proprio fisicamente dove ero cascato. Qui sì, è stato, come dire, ricominciare a scrivere un capitolo che poi era stato solo interrotto. Certo. Bullo in bocca al lupo. Grazie. Ciao Bullo. Ciao Jerry, ciao. Grazie Massimo Bulleri. Grazie Massimo Bulleri. Riusciamo appena a chiudere con Giorgio, ascoltatore da... Sarà il prossimo avversario, tra l'altro, di Bulleri. Perfetto. Giorgio da Pesaro, buongiorno. Grande, parli del diavolo e sputa le corna. Grande, grandi complimenti a Bullo, è grandissimo. Volevo dirgli che a Pesaro ha già rubato una partita con Milano, vedo di non rubare un'altra. Tanto, la premessa. Poi voglio sapere da voi, intenditori e luminari del basket, cosa manca a questa Scavolini, vista la partita di domenica, no? Penso l'abbiate vista tutti la partita di domenica, sì, quella che abbiamo castigato i Taramani, sì, con Poeta che è sempre un grande play, ma lì ha preso, non ha fatto niente. Sì. Cosa manca a questo cavolo di Scavolini per stare un po' più su? Guardi, voi? Giorgio, lei è molto simpatico, e faccio rispondere all'unico vero luminare, che è quel signore di Gerry Zarate. Cosa manca? Insomma, è mancata intanto un po' di fortuna, perché giocare quasi sempre senza i due playmaker non è molto semplice. E poi credo un minimo di pazienza, nel senso che la società ha puntato su giocatori che hanno bisogno di fare almeno una stagione interlocutoria per poter dire a loro ad alto livello. E io credo che Stanić sia uno di questi, insomma, che ha bisogno di, dopo aver fatto molto bene nelle categorie in cui ha giocato, nei campionati in cui ha giocato, di crescere, insomma, anche magari prendendo qualche piccolo schiaffo per diventare un playmaker ad alto livello. Per il resto, se Michael Hicks e Kerr rimangono quelli delle ultime settimane, il nucleo c'è già. Anche lo stesso Akindele ha bisogno di una stagione di prova, ma credo che il nucleo, insomma, in prospettiva possa dare grandi soddisfazioni. Bene Gerry, adesso ti metto la sciarpa, ti porto al bar, ti prendo le caramelle per la gola, perché hai tanto lavoro da fare nel weekend e la settimana prossima, così io come gli altri, così poi torni, ti tratto bene. Grazie a Gerry De Rosa, Flavio Suardi. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie a voi. Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadore in regia. Ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 17:00.